Benvenuti a Una Parola al Giorno, uno spazio per ritrovare il senso, per dare ascolto alle cose che diciamo, che viviamo ogni giorno, per tornare a parlarci veramente, per restituire alle parole il loro più grande potere, quello di costruire, curare, far rinascere. Uno spazio senza pretese che rinuncia volentieri alla perfezione e dove torniamo semplicemente a riascoltare le parole. Cari amici, benvenuti a Una Parola al Giorno, questo spazio che ho pensato di creare così per tornare ad ascoltare le parole. Io credo che in questo momento abbiamo un po' tutti un profondo desiderio, una necessità, una sete di tornare alla forza delle parole. E questo spazio così vuole essere un tentativo di vivere questo ritorno, questo viaggio, ecco. E così in tutta semplicità, ecco, è uno spazio che non ha pretese, dove non si ha appunto nessuna ambizione di essere esaustivi, di andare a sviscerare tutti i sensi delle parole, assolutamente. È così, un momento che vuole essere quotidiano, di riflessione, sì, dove ci ritroviamo, ci sediamo e proviamo ad ascoltare una parola al giorno, così, senza nessuna pretesa di essere perfetti, di essere impeccabili, registrando, tenendo buona la prima, condividendo, così, proprio per mantenere, ecco, questo spirito così genuino, spontaneo, no, di questo momento. Ma io sono molto attaccato alle parole, ci tengo molto, proprio perché secondo me le parole sono un veicolo troppo importante delle nostre relazioni. Le parole e la loro assenza, anche i silenzi non detti ovviamente. Però ecco, prima di tutto lasciatemi un attimino presentare chi sono. Mi chiamo Andrea Polidoro e ho 51 anni. Mi è difficile dirvi in pochissimi minuti la mia vita, parto solo da quello che sto facendo adesso. Mi sono definito una guida digitale. Voi direte: che cosa fai, scusa, che cos'è sta guida digitale? Ma semplicemente prendo per mano chiunque mi chieda aiuto e lo porto nel complesso e popolato mondo del web, per costruire con lui una vetrina digitale e per mantenerla in modo efficace e produttivo. In soldoni, accompagno, che ne so, un'azienda, un'attività, un libero professionista, un ente no profit, chiunque abbia voglia di dare maggiore visibilità alla propria realtà nel web. E con lui, utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione, cerchiamo di costruire appunto questa vetrina digitale, questo spazio nel web dove raccontare al meglio la propria realtà. Quindi mi piace dire appunto che mi occupo di comunicazione, no? Che cerco di raccontare al meglio quello che c'è dietro un marchio, un nome, un brand, cerco di raccontare la bellezza dei progetti che ci sono dietro, il valore delle persone che costituiscono l'anima, no? di un marchio. Il mio motto è: metti in rete la tua bellezza, proprio perché credo che ognuno abbia qualcosa di bello da condividere, da raccontare, che c'è sempre una parte bella di valore, no? Dietro ad ogni progetto. E mi piace fare questo lavoro qua. Ok, dai, facciamo questo viaggio insieme, raccontiamo al meglio, in modo autentico, quello che caratterizza la tua realtà, la tua azienda, la tua attività, e portiamo nella rete il bello che c'è nei tuoi progetti. Quindi faccio questo lavoro qua, lo faccio utilizzando ovviamente o creando siti internet, gestendo spazi social, creando materiale digitale, scrivendo, insomma, post, blog. Mi occupo un po' di tutto questo, ecco, e niente. E quindi ecco, da lì, ma questo fa, diciamo, un qualcosa che ha attraversato tutta la mia storia. C'è appunto un attaccamento alle parole. Allora ho pensato a questa rubrica quotidiana, così perché credo appunto che abbiamo tutti una profonda sete, no? Di tornare ad ascoltare le parole. Ci sono vari paradossi nella nostra società, ecco. Per prenderne uno, è appunto il fatto che, penso mai come oggi, siamo inondati di parole, no? Quotidianamente, tra i nostri telefoni, televisioni, tutti i mezzi che abbiamo, siamo costantemente, quotidianamente subissati di parole, tanto che forse oggi come oggi non conosciamo più la dimensione del silenzio. E forse è un bene anche recuperare anche questo, no? Perché le parole più efficaci, più autentiche, più belle, forse nascono nel silenzio, nascono dal silenzio. E il silenzio è anche favorisce una capacità di ascoltare le parole, quindi insomma, silenzio e parole sono due lati della stessa medaglia alla fine, no? Ebbene, appunto, viviamo in questa società dove le parole sembrano un po' abusate, dove tutti sanno tutto di tutti, dove tutti parlano di tutto, ma in Italia siamo degli specialisti, no? E forse proprio per questo le parole hanno perso un po' il loro valore. E così il mio tentativo in questa rubrica è di provare a tornare a prendere ogni giorno una parola e ritrovare qualche briciola, qualche barlume di senso che possa così dare qualche sprazzo di luce alle nostre giornate. Ripeto, in tutta umiltà, in tutto relax, senza alcuna pretesa, ecco. E ripeto, lo faccio proprio volutamente, con uno stile molto informale, dove se ci saranno degli errori li lascio, ecco, le cose saranno condivise così come verranno. È una mia scelta, le cose si potrebbero fare ovviamente perfette, però mi piace mantenere questo stile così, proprio perché è una chiacchierata, diciamo così, che vuole essere condivisa ogni mattina, così come viene, per non essere appunto troppo costruita, no? Troppo artificiale, ecco. E poi sì, una parola al giorno è quindi questo tentativo di tornare ad abitare questo spazio, anche perché credo che nella società di oggi, ecco, questo secondo me è un altro paradosso, facciamo fatica a parlare, anche qui. Ogni giorno abbiamo una marea di conversazioni, di messaggi, messaggini, chat, e tutto quello che volete, ma ho l'impressione che facciamo sempre più fatica a esprimere quello che ci portiamo dentro. Ecco, una parola al giorno vuole essere un tentativo di tornare ad ascoltare le parole e, come dire, far risbocciare il tentativo di mettere in parole quello che ci portiamo dentro. Credo che ne abbiamo profondamente bisogno un po' tutti oggi, soprattutto dopo un anno di pandemia dove forse abbiamo tenuto dentro troppe cose, troppe emozioni, sensazioni, sentimenti che non abbiamo saputo far uscire, non abbiamo saputo esprimere. Ecco, una parola al giorno vuole essere anche questo, un viaggio durante il quale ci parliamo, ascoltiamo e dove ognuno può provare a tornare a riscoprire la sua capacità di espressione. Le parole sono importanti, le parole pesano, le parole certo possono fare maledettamente male, ferire. Possono creare disastri nella vita delle persone. Il mio focus sarà soprattutto su, come dire, la l'aspetto sano, positivo, costruttivo delle parole. Mi piace focalizzare su questo per, come dire, mettere l'accento su il valore, la potenza che hanno le parole. E quindi appunto il mio viaggio sarà soprattutto mettendo l'accento su questo. Perché? Perché, ripeto, secondo me le parole hanno una grande capacità, che è quella di curare, che è quella di far guarire dentro di noi delle cose, che è quella di farci rinascere, di aprire spazi di cambiamento, di favorire nuove possibilità di senso, nuove prospettive. Le parole hanno una grande capacità creativa, e questo anche dentro le nostre vite, perché le parole che diciamo in qualche modo la dicono lunga su chi siamo, e le parole che diciamo, come dire, in qualche modo orientano la nostra vita, le nostre scelte, la nostra direzione di senso, i nostri percorsi. Stefano Benni dice: dovremmo assomigliare sempre di più alle parole che diciamo, dovrebbe esserci sempre più questa coerenza, no? Tra quello che diciamo e quello che viviamo. Ecco, il mio auspicio è che in questo viaggio, dove ci mettiamo ad ascoltare le parole, in qualche modo ne ritroviamo la forza, le traduciamo in vita, consentiamo loro di fare il lavoro che devono fare dentro di noi, perché tutto ciò appunto possa creare coerenza tra le parole che scegliamo, che diciamo, e la nostra vita. Voglio terminare questo momento con una frase di Edoardo Galeano, che dice: la mia regola è usare soltanto parole che migliorino il silenzio. Trovo che sia molto bello questo. Ripeto, in una società nella quale viviamo, dove la dimensione del silenzio non c'è, fa quasi paura, dove lo spegniamo il silenzio e lo riempiamo di suoni, di musica, di parole, di immagini, perché il silenzio ci imbarazza, ci mette in difficoltà, probabilmente perché ci confronta con noi stessi. Ecco, questo viaggio nel mondo delle parole vuole essere anche un percorso che ci porti a migliorare il silenzio, dove parole e silenzio si tengono per mano, è un va e vieni, parole che migliorino il silenzio, un silenzio che ci porti ad ascoltare meglio le parole, e tutto ciò non è semplicemente un qualcosa di così intellettuale, un puro godimento così della mente, ma vuole essere un cammino che ci porta a vivere meglio, a stare meglio, a comunicare meglio, a dirci parole che ci fanno vivere. Ecco, tutto ciò sarà così, in modo molto informale, abbraccio come viene, e così, se vi va, io vi aspetto ogni giorno, sarò ben felice di condividere con voi qualcosa su una parola al giorno. A presto allora, e buona giornata a tutti voi.